Cari amiche, cari amici, bentrovati, bentrovate, martedì sera. Siamo nuovamente qui con voi questa sera, brussellando Radio Alma. Io sono particolarmente emozionata questa sera perché sono ormai quasi 5 anni che andiamo in onda con Brussellando, eppure l'esperimento di cui saprete fra poco non l'avevamo ancora mai effettivamente sperimentato dai nostri microfoni, quindi sono davvero curiosa di sapere quelli che saranno i risultati finali. Vi avevo accennato qualcosa in chiusura la settimana scorsa, vi avevo ricordato di essere qui con noi numerosi questa sera, già lo siete ma ancora di più, quindi speriamo che l'attesa sia soddisfatta. Saluto alla regia Danielle. Buonasera a tutti. I nostri George e Fiordaliso questa sera non sono in macchina, ma sono in Vespa, probabilmente avranno sbagliato incrocio, ma arriveranno. Sono annacquati. Sono annacquati, poi fa tanto freddo, insomma, ma oggi è il 13 dicembre, quindi ricordiamo, salutiamo tutte le nostre amiche in ascolto che si chiamano Lucia, loro vanno ovviamente i nostri auguri di un buon onomastico. Anche perché, soprattutto in Italia e nei paesi nordici, Santa Lucia è sicuramente una delle sante più venerate. Poi magari possiamo anche ricordare qualche pettegolezzo storico che, insomma, sarebbe anche il benvenuto. E ecco, arriva il nostro George, così, insomma. Prima di passare però al nostro ospite, siccome sono pochissimi gli eventi che vogliamo sottolineare questa sera con l'agenda, direi, insomma, di ricordarli rapidamente. Parto da una mostra che è dedicata a Dalí, a Magritte, a Miró e al Museo delle Belle Arti di Belgio, però ovviamente il nostro Dani M ha voluto già sottolineare un evento che ci sarà tra il prossimo 16 marzo e fino al 15 luglio del 2012, quindi vi ricordo, insomma, che è una mostra effettivamente abbastanza interessante, proprio perché per quanti non avessero ancora potuto ammirare i capolavori di questi artisti, veramente sembra essere una mostra ricca di tantissime Sì, perché la prevendita inizia adesso ed è molto consigliato acquistare i biglietti in anticipo perché sarà su invito. Bene, grazie Danielle per la precisazione. Vi ricordo poi che, essendo periodo natalizio, un po' dappertutto a Bruxelles ci sono mercatini di Natale un po' ovunque, quindi, insomma, non esitate, malgrado il freddo, ad uscire di casa a farvi delle passeggiate, perché effettivamente stasera, per esempio, abbiamo scoperto che c'è anche un piccolo mercatino a Place Jourdain, mercatino natalizio, e per noi questa è stata veramente una vera novità. Vi ricordo invece poi un altro evento interessante, City Ski, che sbarca finalmente a Bruxelles ed è proprio una pista di sci lunga 150 metri ed è una sorta di rampa di lancio per i più temerari, ma non solamente questo, quindi vi invitiamo a scoprirla. E si chiama Bruxelles 1000, al centro del villaggio City Ski nel parco de Desar, quindi, insomma, vi invitiamo a partecipare. La tariffa è anche abbastanza modica, 5 euro per 20 minuti per tutti quelli che amano il rischio estremo. Effettivamente, dato il freddo, forse è un buon modo per riscaldarsi. E poi l'ultimo è abbastanza interessante, soprattutto a quest'ora, a Table du Champ à l'Assiette, ed è una mostra dedicata proprio alla gastronomia, e per celebrare degnamente l'anno della gastronomia, la SBL Demeter, in partenariato con la fiera famosissima del Libramont, la fiera dell'agricoltura che ha luogo a Libramont il mese di luglio, organizza questo evento, ed è un percorso estremamente straordinario realizzato con i migliori chef, immaginiamo non solamente belgi. Per quanti volessero saperne di più, expoattable.be. Ovviamente Arthur de Taxi, e la tariffa è abbastanza modica, dalle 9 alle 12, e tutto questo fino al prossimo 3 giugno 2012. Detto questo, e visto che il nostro George è già arrivato, è già scomparso, io saluto Fiordaliso. Ciao! Bentrovata, benvenuta, spero che... Sì, rispetto a martedì scorso... Rispetto a martedì scorso siamo, cioè, adesso noi siamo in buona salute, la macchina ancora è spaccata qui... Vabbè, auguri di una pronta guarigione anche alla nostra vettura. E introduciamo invece l'ospite di questa sera. Francesco, benvenuto a Radio Alma, benvenuto a Brussellando. E Francesco questa sera ci parlerà della musica medievale. Tanto grazie dell'invito e una buona serata ai nostri ascoltatori. Che devo dire della musica medievale? Allora, innanzitutto raccontaci qualcosa di te, brevemente, insomma. Io chi sono è un Francesco? Appassionato, semplicemente un appassionato di musica antica, non solo medievale. Musica antica si intende la musica precedente al barocco e si è identificata come tale non tanto per l'età venerabile quanto perché per poterla fare bisogna, diciamo così, assumere un altro approccio, un'altra mentalità rispetto alla musica classica. Non è sufficiente prendere uno spartito e suonarla, ma bisogna fare anche altre cose. Come nasce questa tua passione proprio per la musica antica? Ma in modo del tutto casuale. Io sono laureato in storia medievale, quindi la musica medievale era una componente in qualche modo degli studi che facevo. La musica in generale ho cominciato a farla per motivi del tutto casuali, amicizie, incontri, e sono entrato in un coro, non ero neanche tanto giovane, insomma, non avevo mai studiato musica prima, e la passione è stata tale che poi sono diventato io un direttore di coro, ho messo in piedi due gruppi, uno a Roma prima e l'altro a Bruxelles, e ho condotto anche una trasmissione per diversi anni, oltre che fare io stesso il solista, il cantante, diciamo, in alcuni gruppi. Prima dicevi che la musica antica precede la musica barocca, e possiamo quindi magari darne una definizione? Beh, secondo alcuni anche la musica barocca farebbe parte della musica antica, perché anche nella musica barocca ci sono elementi, diciamo, di filologia, si dice tecnicamente, con le parole difficili, di interpretazione, per le quali non è sufficiente, diciamo così, l'approccio puro e semplice a uno spartito e alle tecniche che si impara nel conservatorio. La cosa fondamentale della musica antica è proprio questa, in realtà, è il fatto che, siccome si tratta di cose passate, di cose per le quali non c'è stata una continuità di tradizione, di repertorio, c'è da parte di chi la deve fare un lavoro di interpretazione, di studio, di ricerca, che secondo me è anche la parte più bella e più interessante. So che è una domanda probabilmente ci richiederebbe ore di trasmissioni, però potresti magari indicarci brevemente i momenti salienti di questo periodo musicale? Quanto tempo mi dai? Guarda, iniziamo, poi dai, giusto per abituare anche i nostri amici all'ascolto, insomma, a questa tipologia di musica così diversa. Un secolo in un minuto. Magari fosse un secolo, sono molti di più. Sono tanti secoli. Beh, intanto la musica che si chiama antica, quando si riferisce all'antichità classica, cioè al periodo dei Romani, dei Greci, eccetera, per noi è ancora un mistero, nel senso che non abbiamo praticamente nessuna testimonianza, ce ne sono pochissime e sono tutte estremamente difficili da identificare, perché non c'era nessuno che la scrivesse in modo tale da poterla trasmettere in maniera inequivoca per il futuro. Sai che la storia si distingue dalla preistoria perché nasce la scrittura, no? Esatto. Ecco, nella musica la preistoria, cioè gli antichi romani sono ancora preistoria, la storia comincia col Medioevo, comincia con il canto gregoriano, perché con il canto della liturgico della Chiesa romana, che è il canto gregoriano, si comincia a scrivere la musica, cioè si comincia a fare in modo di lasciarne una traccia, di lasciarne memoria per le generazioni successive. All'inizio non è una memoria che serve per i posteri, serve solo per i cantori, perché siccome diventava complicato impararsela tutta a memoria, allora si indicavano dei segni, dei segnacci. Se li guardate sono degli scarabocchietti che, se li vediamo oggi, uno dice: ma che roba è questa? E invece quelle erano le note, questi segnetti che si chiamano neumi, diciamo sempre l'indicazione più o meno precisa. Do il benvenuto anche al nostro Giorgetto, al nostro Poi invece dai neumi si passa a quello che adesso dirà. Passa un famoso cantico che dice, che comincia con aspetta, ut. Non aspetta, no, non utque ant laxis, siamo già un po' più avanti, sì, sì, rispetto a lui tende sempre ad anticipare, no, siamo dopo, con calma, aspettate, calma. Sì, io lo so che le domande sono tante. Allora, iniziamo però un attimo a chiarirci le idee, partendo dalla sottoscritta. Mi puoi finalmente far capire se c'è una differenza tra la musica sacra, la musica liturgica e quella spirituale? Se esiste. Oddio, una. Oppure detti no. Così sembrano tre sinonimi. La musica sacra è la musica liturgica, cioè la musica che si canta, che si suona nelle occasioni di liturgia, nelle messe, nella liturgia delle ore dei monaci, in altre occasioni in cui si compie un evento sacro. Poi c'è la musica devozionale, cioè la musica che fa riferimento a tematiche religiose, ma non si utilizza per le cerimonie sacre. e quella è diversa. Musica spirituale è una categoria dello spirito, per l'appunto una categoria filosofica, può anche per me certi passaggi dei Pink Floyd sono spiritualmente elevati, quindi quella è una categoria che si può applicare a varie forme, non necessariamente quelle della liturgia cattolica. Prima di passare ai brani, perché ne abbiamo tanti e vorrei che tutti i nostri amici potessero ascoltarli, allora ancora un'altra domanda. Canto gregoriano, polifonia, canto popolare sacro, sono ancora dei sinonimi oppure storicamente no, sono popolare, delle evoluzioni? Canto popolare sacro non è mai stato sinonimo di canto gregoriano. La polifonia per definizione non c'entra nulla col gregoriano, il quale è monodico, cioè si canta a una sola voce, anche 100 persone devono fare una sola voce. La polifonia sacra è una fase successiva, nasce in realtà perché i monaci si annoiavano a fare sempre le stesse cose. No, non è vero, non è così, una. È verissimo. Non è una. Erano umani anche i monaci. Certo. E allora ancora un'altra curiosità, veramente stasera così almeno. Quando parliamo anche delle composizioni musicali e delle cosiddette messe, abbiamo il Requiem, la Missa Solemnis e quella Brevis. Ancora, sì. Se ci puoi aiutare a eclaircire le nostre conoscenze. Arrivare alla messa come forma, diciamo così, artistica ben chiara, ben definita, è un processo lungo, non è una cosa immediata. La messa nasce nel periodo gregoriano come forma artistica, ma con le parti separate, cioè prima si comincia a cantare il proprium, cioè quello che si fa in ogni specifica messa in ogni momento dell'anno, poi si cominciano a comporre invece anche gli ordinaria, cioè le parti tipiche della messa, e poi gli ordinaria prendono il sopravvento e diventano loro in qualche modo le principali componenti della messa. Il primo che scrive una messa tutta intera su un progetto culturale ben preciso, che è una messa polifonica, bisogna arrivare al tardo 300 de Guillaume de Machaut, esatto, sì. E ci arriveremo. Quindi nella messa gregoriana, voglio dire, gli autori sono anonimi, è possibile che qualcuno abbia composto lui stesso molte parti, anzi la tradizione dice che a comporre l'intero corpus del canto gregoriano sarebbe stato il Papa Gregorio Magno, il nome verrebbe da lì, cui poi... gli storici hanno verificato che non è esattamente così, che i primi canti sono molto più antichi, vengono dall'Oriente, poi c'è stata una lunga evoluzione e che in realtà il Papa che ha avuto, diciamo, il merito di creare un vero e proprio progetto culturale da questo punto di vista fu Gregorio II, che viene citato in un brano, Gregorius Presum Meritis, che insomma, fa riferimento a questo Papa che è molto successivo a Gregorio Magno. Poi la codificazione diciamo, di tutti i brani, del grosso dei brani del gregoriano verrà successivamente nel IX secolo per motivi anche politici, cioè per evitare che canti liturgici, canti estranei alla tradizione romana che si erano diffusi nelle varie parti d'Europa, diciamo, andassero troppo per la loro strada, per riunificare e dare, diciamo, alla Chiesa di Roma un centro forte, e si decise di dare, si stabilì che il corpus delle musiche che si dovevano cantare sia per la liturgia delle ore durante la giornata dei monaci sia nella messa erano quelle prescritte da Roma, e quindi si mandarono in giro i libri che raccoglievano questi canti che si chiamano antifonari. Il 1300 è stato tra l'altro un secolo anche abbastanza importante per la Chiesa di Roma. Credi che lo sviluppo anche di questo tipo di musica fosse legato ad un messaggio ben preciso della Chiesa di continuare comunque ad educare le folle anche attraverso la musica? Oddio, il 300 siamo già 5 secoli dopo quello che avevo detto, nel frattempo erano successe anche molte altre cose e appunto si era formato questo corpus e si era stabilito, i monaci lo dovevano cantare stabilmente, dovevano cantarlo sempre allo stesso modo, c'era la clausola ne varietur, e questo li portò in qualche modo a inventarsi delle forme alternative di cantarlo, che dovevano rimanere sempre nell'alveo della tradizione, ma erano in qualche maniera già differenti. Dall'evoluzione di questo poi si arriva ai grandi capolavori del 300, del 200, del 300 e del 400. Cominciamo magari col primo capolavoro. Beh, il primo capolavoro in realtà è un semplicissimo brano di canto gregoriano del periodo natalizio, il Verbum caro factum est, è nella forma del responsorio, cioè c'è il solista e gli risponde, il solista declama alcuni versi e gli risponde l'assemblea. E il verbo si fece carne e venne ad abitare tra di noi. Esatto. Cari amiche, cari amici, in Radio Alma, Brussellando, siamo in atmosfera natalizia, oggi è giorno di Santa Lucia e questa sera parliamo di musica sacra con il nostro amico Francesco. Anche profana. Anche profana, però insomma l'idea di parlare di musica sacra insomma in questo periodo è particolarmente allettante. Ci vuoi raccontare qualcosa in più di questo brano? No, questo brano è uno dei brani della liturgia delle ore, è un responsorio che si cantava in periodo natalizio, è interessante nel senso che è una stupenda semplificazione di come questa musica che nasce per motivi esclusivamente sacri possa essere anche bella. Comunque una cosa va detta ed è fondamentale per capire, non si capirebbe mai il gregoriano se non si comprendesse che è una preghiera. E uno dei più grandi gregorianisti che ho avuto la fortuna di conoscere, che è Bonifacio Baroffio, una volta disse a noi che studiavamo gregoriano, cantavamo gregoriano con lui, gli domandavamo se avevamo cantato bene o no, lui rispose: tu hai pregato? Sì, e allora hai cantato bene, e quello è sufficiente, questo è una preghiera, e questo è diciamo la chiave di tutto. Ed erano preghiere anche diciamo quelle forme di musica che si cominciarono a venire formando a partire dal X secolo più o meno. I monaci, come dicevo, tendenzialmente non avevano piacere a ripetere sempre le stesse cose e la fantasia umana ha bisogno diciamo di esprimersi, e quindi cominciarono a inventarsi una serie di forme di canto che doveva essere sempre nel solco della tradizione, ma che di fatto erano innovative. Inventarono le sequenze, cioè prendevano dei melismi alleluiatici, e melismi, per non parlare troppo complicato, sono tutti quei giochetti che si fanno sull'alleluia, quelli di alleluia che non finiscono mai perché è pieno di note, notarelle, eccetera. Ecco, su questi giochetti che si chiamano melismi mettevano dei testi nuovi, e così nacquero le sequenze, che sono canzoni praticamente, sono brani scritti prendendo come base quella musica lì. E poi si inventarono i tropi erano qualcosa anche di più complesso, perché erano per l'appunto nuovi melismi inventati totalmente ex novo, su cui si applicavano o testi vecchi o anche testi completamente nuovi. Ecco, questo è già un conductus, questo che sta andando avanti. Il conductus è un passo ancora più avanti, perché dall'invenzione di un testo completamente nuovo, che era appunto il testo del conductus, e applicando la tecnica dell'organum, non mi riuscite a fatto arrivare a parlare dell'organum, comunque, che è l'inizio della polifonia. cioè una seconda parte che si aggiungeva alla prima in modo molto molto semplice, una specie di bordone, qualcuno che teneva fissa una nota e gli altri ci cantavano sopra. Ecco, questo era il primo esempio di organum. Ecco, mettendo insieme l'innovazione dei tropi e le tecniche, diciamo, dell'organum, si è creato questa nuova tipologia di musica che si chiama conductus, che è tipica dei secoli, diciamo, undicesimo, dodicesimo. Questo che abbiamo preparato, per l'appunto, è l'Olilium Convalium, che è un bellissimo conductus dell'inizio del 200, che viene dalla scuola di Notre Dame. Cari amici, eccoci nuovamente qui e avete appena ascoltato un estratto di Olilium Convalium. Francesco, a te la parola. Niente, Olilium Convalium appunto è un conductus del frutto di un'evoluzione che è cominciata dal canto gregoriano e proseguita con le sequenze, con i tropi. Sui tropi è interessante sapere che tropar vuol dire comporre tropi, e da lì vengono i trovatori. Certo. Viene da lì. Trovar vuol dire comporre, cioè inventarsi qualcosa ex novo. È interessante questa cosa perché questa è un'epoca in cui non c'è niente di nuovo e tutto viene spacciato per nuovo, invece è riciclaggio continuo di cose vecchie, mentre nel Medioevo era tutto un continuo inventarsi, ma dovevano per forza far finta che fosse vecchio, che fosse tradizionale. Cioè c'è questa stranezza, diciamo, curiosa. Beh, stavamo parlando però delle doppie voci che si sentivano. Sì, il conductus appunto è già una fase in cui la seconda voce non è più, come nell'organum, come dicevo prima, un accompagnamento, ma diventa un contrapunctum, cioè punto contro punto, cioè una seconda voce che segue lo stesso ritmo della prima. E tecnicamente si definisce discantus questo il fatto che la seconda voce sia esattamente abbia lo stesso ritmo della prima. Quindi nel tardo XII secolo si vengono a formare queste due nuove forme di polifonia, cioè di canti, uh-huh, sempre nell'ambito sacro, e stiamo sempre parlando di musica sacra. Queste due nuove forme, che sono il conductus e il mottetus. Il conductus ha appunto questa caratteristica, cioè che il testo è completamente nuovo, e la seconda parte di solito è in discantus, alcune volte in organum, più spesso in discantus, cioè ha appunto lo stesso ritmo della prima. L'organum ha un ritmo diverso, come abbiamo detto. Il mottetus è ancora più complessa, perché nel mottetus si prende come base un gregoriano vero, quindi un testo che già esisteva, e si aggiungono altre voci, delle quali una è di solito in organum e l'altra in discantus. Mm. Quella che è in organum, quindi che fa le voci molto, molto lunghe, la vox principalis, diciamo così, è detta anche tenor, perché tiene, per l'appunto, che poi si evolverà nel basso, quindi la parola tenore in realtà all'inizio è il basso. Fantastico. Vabbè. Questo è molto bello. Quindi una nota costante intorno alla quale c'è sia diciamo il controcanto che l'altra voce, quindi sono tre di fatto. Esatto. Vox principalis, vox organalis, che poi quando l'organo da due passa a tre a quattro voci diventano duplum, triplum, quadruplum, certo, eccetera. Parlavamo di trovatori. Parlavamo di trovatori, ecco. Quindi questo ci permette di dare già un orecchio, di prestare l'orecchio al prossimo brano. Sì, il prossimo brano in realtà non è precisamente certo che si tratti di un trovatore dal punto di vista della musica, mentre quasi sicuramente lo è dal punto di vista del testo. Il testo è in lingua doc. Il testo è in lingua doc ed è un testo incredibilmente bello, che racconta l'arrivo della primavera, rappresentato da questa regina che scaccia via il gelos, questa yes. parola che vuol dire sia geloso sia il gelo, cioè indica sia il periodo invernale che non vuole andare via, tant'è vero che il re, che rappresenta il periodo invernale, cerca di trattenerla dall'aprire danze, invitare giovani, invece la regina si impone e invita tutti quanti a danzare. È una danza di epoca ancora non certissima, perché il problema pare della musica... Pare secolo. Il testo quasi sicuramente è della seconda metà del XII secolo. La musica probabilmente anche, potrebbe essere anche più antica. Oh. Il grande problema della musica profana è che non è che non si faceva e come? Perché la gente ha sempre ballato, si è sempre divertita, è che non si scriveva, quindi non è stata trasmessa. Veniva tramandata oralmente. Veniva tramandata oralmente, musicalmente. Tradizionalmente, ma era... Come il giullare ci insegna, esatto, no? Esattamente, ma non veniva scritta, non ci sprecavano la pergamena, che era costosissima, certo. per fare le musiche da danza. Questo brano però era talmente bello, è bellissimo, che ci hanno perfino sprecato la pergamena. Ed è, diciamo che... È il primo brano di musica profana di cui si può effettivamente dire che noi conosciamo con una certa esattezza. All'entrata del Tenth Clara, all'inizio, cioè quando viene il tempo chiaro. Il tempo chiaro. Quando, all'entrata del tempo chiaro. Fa riferimento alla primavera, ma immagino che ballare questo ballo ora con questo freddo ci aiuterebbe sicuramente a riscaldare non solo il corpo, ma anche il sorriso. Francesco, no, ma non è affatto ti detto ringraziamo che questa stessa, perché è bellissimo. Non è affatto detto che questa stessa musica applicata a un altro testo non si ballasse anche in altre stagioni. È straordinaria, di una vitalità. Una delle caratteristiche della musica medievale è il contrafactum. Il contrafactum è la tecnica secondo cui tu prendi una musica che nasce, che ne so, per motivi, per amore, per danza, per protesta, e ci metti un altro testo sopra. Attraverso i contrafacta noi conosciamo tantissime opere, cioè diciamo la musica di queste composizioni l'abbiamo ricostruita prendendone un'altra, ipotizzando che fosse un contrafactum, ovviamente ipotizzandolo non a capocchia, ma sulla base di una serie di criteri. E quindi abbiamo ricostruito da lì la musica che presumibilmente poteva far riferimento a quel brano in questione. Quindi abbiamo visto come nasce, non come nasce la musica profana che c'è sempre stata, ma come viene fuori, come si inizia a scrivere anche la musica profana. Uh-huh. Si inizia a scrivere perché è bella, perché è bellissima. Si inizia a scrivere perché, essendo così bella, viene utilizzata anche per fare brani sacri. È pieno di contrafacta sacri. Per esempio, noi conosciamo la musica di alcune musiche assolutamente profanissime, Carmina Burana, grazie al fatto, parlo di Carmina Burana veri, non di quelli di Karl Orff del 1935, che normalmente uno pensa a quelli, in realtà, esatto, io parlo di quelli veri, quelli medievali. Ecco, noi conosciamo la musica di alcuni Carmina Burana perché le loro musiche sono state utilizzate come contraffacta in un famoso dramma liturgico. Il dramma liturgico è l'ultima evoluzione, sempre diciamo, di come la musica sacra può diventare creativa. Praticamente si mettono in scena delle rappresentazioni di fatti del Vangelo, della Bibbia, classico per esempio la venuta dei Re Magi piuttosto che il sepolcro vuoto a Gerusalemme. Ecco, da lì si mettono in scena questi drammi e noi conosciamo benissimo ovviamente le musiche dei drammi liturgici, perché già allora la notazione si era evoluta in modo che per noi adesso è diventato più facile leggerla, con la notazione quadrilineare che ancora oggi si utilizza per cantare il gregoriano, e da lì abbiamo ricostruito anche molte opere profane che avevano la stessa, non so, per fare un esempio, uno di Carmina Burana che parla del vino, istud vinum bonum vinum vinum, che certamente non è musica sacra, beh, la stessa musica la troviamo nel Ludus Danielis, che è un stupendo dramma liturgico degli inizi del 200, che dice Jubilemus regi nostro magno ac potenti, la stessa musica. Questa immagino invece che la conosciate in tanti. Questa è la lauda, è una lauda che si è laudato San Francesco dal Laudare di Cortona. Il Laudare di Cortona è una raccolta di laudi, non ancora abbiamo detto che cos'è la lauda. Lo diciamo però adesso. Prima avevamo diciamo, anticipato la musica devozionale, cioè nel Medioevo, in particolare nel 200, viene fuori questa grande quantità di bellissime, straordinariamente belle musiche monodiche, cioè una sola voce, molto semplici, molto molto semplici, che fanno riferimento a tematiche religiose, ma non sono destinate alla celebrazione, alla messa, sono destinate alla piazza, alle feste, ai grandi eventi popolari. La lauda era perfetta da questo punto di vista, perché intanto era scritta in lingua volgare, la potevano capire tutti quanti, dava modo ai laudesi, cioè ai cantanti esperti, di farsi vedere nella loro qualità quando c'erano le strofe, perché poi cantavano in modo molto semplice le prime strofe, ma siccome ce n'erano tantissime di strofe, le altre cominciavano a variarle, a divertirsi un po', mentre il popolo cantava il ritornello, che era generalmente molto molto semplice. Mm-hmm. Quindi possiamo immaginarci una festa in una località dell'Umbria con appunto la gente che canta queste belle canzoni popolari in gruppo, con alternando i ritornelli e le strofe, e qui siamo già nel 200 ed è in fondo molto simile alla cultura popolare che c'è ancora oggi. Le canzoni popolari hanno ancora questa stessa struttura: ritornello, strofe, monodia, cioè voce singola, voce singola. Ma ecco, anche in Spagna esce viene fuori una raccolta relativamente simile alle laudi, che si chiamano le Cantigas di Santa Maria. Sono un po' diverse dalle laudi, sono meno facili, più colte, più intellettuali, anzi a raccoglierle fu il re Alfonso X il Saggio, ma rispondono a criteri relativamente simili a quelli, diciamo, delle laude italiane, perché sono nella lingua volgare, hanno la struttura strofa-ritornello. Sono un po' più elaborate le Cantigas rispetto alle laudi. E adesso ci aspetto. Oh, mentis partibus adventa vitasinus pulcher et fortissimus saracinis aptissimus ensinas nere et in collibus icene enutritus sub ruben transit per Iordanem salit in Betelem ensinas nere saltu vincit in nullos dagmas et capreolos super ad dromedarios velox madianeos ensinas nere Aurum de Arabia, dus et milla de Saba, dulit in ecclesia, virtus asinaria. Pensilas neves! Dum trait veicula, multa cum saracinula, illius mandibula, dura terit fabula. Pensilas neves! Cum aristis sona Deo. Et siras nehez. Forza asino, muoviti. Questa è l'Orientis Partibus ed è una canzone satirica. Fa riferimento alla cultura di quelli che si chiamavano i clerici vagantes, mm-hmm. cioè clerici nel Medioevo più che o non erano unicamente i preti, ma erano gli uomini di cultura, c'era cioè quasi un sinonimo. Di chi è? Vagantes perché erano quelli più sfigati che non trovavano posti, diciamo, ben pagati e quindi giravano tra un posto e l'altro. Hanno dato vita alla goliardia e nella fattispecie rappresentavano queste forme satiriche che erano tollerate, anzi molto apprezzate in alcuni periodi dell'anno in cui tutto l'ordine si rovesciava, per cui l'asino diventava l'imperatore. Ecco, questa è la storia dei Re Magi, Orientis Partibus, sotto forma di satira, diciamo in forma satirica. Questo ovviamente fu fortemente combattuto dalla Chiesa, ma in realtà noi sappiamo che molti di quelli che cantavano questi brani nei momenti, diciamo, in cui questo era consentito, poi erano gli stessi sacerdoti che poi del Medioevo si ha un'idea un po' sbagliata, perché lo si crede molto simile alla Controriforma, ma non è così. Cioè il Medioevo era molto più libero da molti punti di vista rispetto al periodo, diciamo, certo, che nasce con la Controriforma. Assolutamente. Qua. Ecco la primavera, in realtà siamo alle porte dell'inverno, però facciamo finta di stare tra tre mesi. Questa, se abbiamo fatto riferimento prima all'entrata del Tensklar, anche questa era una canzone, diciamo, primaverile, ma in realtà è la canzone di un grande autore, è una ballata per essere più precisi, una ballata minima perché ha una sola strofa, una sola mm-hmm. coppia di strofe. E qui siamo già nel 300 abbondante, siamo già a Firenze, probabilmente era nella top 10 dell'epoca questo brano, perché lo possediamo da varie fonti. Questo è un altro brano di Landini, di quest'autore Francesco Landini, che era il più famoso musicista dell'epoca, citato in diverse opere, era cieco e si dedicò alla musica con eccellenti risultati. Landini è importante perché voglio dire, non ha solo composto ballate di ispirazione popolare, anche se poi se uno un brano come questo lo guarda attentamente si accorge che è tutt'altro che facile, tutt'altro che semplice strutturalmente, che denota un grande compositore. Che la situazione nel frattempo si era molto molto evoluta, dagli anonimi cantores siamo arrivati ad autori che sono ben coscienti del proprio valore, delle proprie qualità, che le mettono a frutto anche economicamente in qualche modo, diventano famosi, il loro nome si tramanda, ecco, compongono cose semplici che possono essere comprese, certo, da tutti, ma compongono anche cose molto difficili, cioè non è che è tutto facile come ecco la primavera, la produzione di Landini, ci sono cose molto molto complicate. Posso far mutato che non ti ho adesso far bucato. Che non piova. Che non piova, quindi qui a Bruxelles. La legge di Murphy già nel 300. Questo era più o meno contemporaneo di Ecco la primavera, è un brano anonimo, e però è interessantissimo sia questo testo satirico, ma anche la possibile lettura simbolica, perché poi successivamente dice: perché io non possa vincere la mia prova, quindi non fa riferimento soltanto al bucato. No. L'esempio di come nella cultura del 300 queste forme di musica, di danza popolare, si sposano con una poesia e anche una tecnica compositiva assolutamente colta e di livello molto molto elevato. Giorgio forse voleva aggiungere qualcosa. No, avevo già chiesto. Io sono... Stavo commentando... No, sai che io sono sempre... Stavo commentando, no, quando abbiamo sentito Ecco la primavera, riccheggiava molto qualcosa del Branduard di 30 anni fa, che insomma sembra che abbia... Si abbia proprio presa a piene mani, abbia tirato fuori e abbia copiato, no? Chi farà piacere o meno, insomma. Magari a lui no, che è uno studioso. Daniel, vai con questo brano che lo aspetto dall'inizio. Questo è un bellissimo brano. Qualche problema di trasmissione succede con l'ultimo, magari ci riproviamo verso la fine. La missione era quella di trasmettere la news day della messa da Notre Dame di Guillaume de Mochon. Ah, forse ci riusciamo di nuovo? Magari lo lasciamo, iniziamo a sentirlo come sottosfondo, poi... No, comunque su Guillaume de Machaut bisognerebbe dire tante cose, allora, perché Guillaume de Machaut è il massimo, esatto, esponente. Però qualche cosa su di lui va detta, e anche le caratteristiche e le novità che lui introduce nell'Agnus Dei Missa, perché sono tante le nella cose Missa di Notre Dame, sì, assolutamente. Sì, la prima novità è proprio la Messa stessa, nel senso che è la prima Messa composta da un unico autore. Noi possediamo prima di quella la Messa di Tournai, una prima Messa polifonica, ma probabilmente non è di un unico autore e comunque non ha la stessa unità artistica. Invece nella Messa di Notre Dame di Machaut c'è proprio un progetto artistico preciso. C'è un disegno ben chiaro che riguarda l'intera struttura della Messa in tutte le sue parti. Ci sono sei parti: il Kyrie, il Gloria, il Credo, il Sanctus Benedictus, l'Agnus Dei e l'Ite Missa Est, che ripropongono, diciamo, le stesse formule ritmiche che si chiamano talee all'epoca e le stesse formule melodiche che si chiamano colores, questo per gli appassionati un po' più preparati, in un contesto di polifonia di grandissima qualità e raffinatezza. Nel frattempo, diciamo che la tecnica si era molto molto evoluta e eravamo passati attraverso una serie di fasi, in particolar modo la fase dell'Ars Nova, il cui, diciamo, principale trattatista era anche un grande musicista, Philippe de Vitry, e Machaut conosce le tecniche dell'Ars Nova, questa tecnica di polifonia molto molto elaborata in maniera perfetta, però contemporaneamente anche in qualche modo l'ultimo dei trovatori, perché nella sua produzione profana scrive moltissimi brani che potremmo, diciamo, avvicinare a quelli dei trovatori, quindi di brani di poesia musicata, però con un livello, diciamo, di complessità musicale grandissimo. Guillaume de Machaut era un personaggio molto interessante, perché era anche un grande diplomatico e, insomma, non fosse altro sarebbe interessante, perché a 70 anni c'è avuto una storia con una ventenne, quindi... Beh, anticipato di molto i tempi, no? Cose sì. Che... Addirittura. Era pure prete, oltretutto, quindi... Vabbè, insomma... No, vabbè, insomma, allora è andato al di là. Chissà se ci riusciamo ad avere... Allora, volevo soltanto aggiungere un altro dettaglio, vediamo se Francesco me lo conferma, che questa messa venne poi trasformata in un requiem in occasione della morte dello stesso Guillaume Machaut. Beh, era una pratica relativamente comune, quella di scrivere, diciamo, sulla base delle musiche composte dal musicista, dei planctus in onore del musicista stesso. E successivamente ce ne sono stati anche di bellissimi. Eccola. riusciti comunque ad ascoltarne pochissimi secondi, magari per i più curiosi, in questo caso la cattedrale era quella di Reims, così insomma abbiamo soddisfatto anche questo requisito. La cattedrale di Reims. Assolutamente. Francesco. No, un attimo, però in che periodo siamo? Guillaume de Machaut. Guillaume de Machaut è la seconda metà del 300. Anzi, diciamo che è 300 pieno, no? Sì, è 300 pieno. Nel 1304, mi pare, e muore nel 1374. Pressa poco, sì. Grosso modo, non ovviamente non c'era l'anagrafe, non abbiamo i dati esattissimi, però sappiamo grosso modo che quella abbracciò era la sua la epoca. Parte più. La Missa di Notre Dame è sicuramente successiva agli anni 50, degli anni 50 successivi. Beh, però insomma, a livello è vero che a livello di polifonia lì c'è. Cioè, sì, no, è il prodotto di un'evoluzione, ma anche di una genialità notevolissima, che poi darà luogo a molti seguaci. Le grandi scuole polifoniche fiamminghe fanno in qualche modo tutto riferimento all'Ars Nova di Philippe de Vitry prima e di Guillaume de Machaut poi, a cominciare da Johannes Ciconia, che è il primo grande esponente della prima scuola fiamminga, che è di alcuni decenni successivi a Guillaume de Machaut. Lì si transita per un periodo di grandissima elaborazione che viene definito Ars Subtilior, arte troppo sottile. Francesco, il tempo e radio, come sai, è tiranno. Sì, lo so. Quindi corre veloce, sembra che corra ancora più veloce di quello che abitualmente è. Siamo in chiusura, è Natale. C'è magari qualche suggerimento di ascolto che vorresti condividere con i nostri amici in ascolto? Ma suggerimenti di ascolto? Io spero di aver proposto generi, tipologie che possono essere di interesse più o meno differente. Accostarsi a queste cose funziona solo se c'è un minimo di passione. Certo. A me, io ho avuto i miei motivi, non ho particolari suggerimenti da dare, perché le vie possono essere differenti a seconda, diciamo, della sensibilità di ognuno. Comunque sicuramente l'ascolto delle laude, delle cantigas di Santa Maria è eccellente per entrare dentro le sonorità della musica medievale in modo semplice, perché sono opere semplici, facili da seguire, ma danno luogo a grandi possibilità da parte degli esecutori, perché come dicevo prima il bello della musica antica è che l'esecutore deve fare un lavoro preparatorio, deve scegliere, non è vincolato allo spartito in tutto e per tutto come avverrà poi a partire dal romanticismo in poi. Francesco, noi ti ringraziamo, siamo stati veramente deliziati da queste chicche musicali. C'è un saluto, qualcuno che vorresti, a cui vorresti dedicare un ultimo pensiero? Beh, ovviamente io vorrei salutare con grande gioia le persone che mi hanno accompagnato nella avventura che ho avuto qui a Bruxelles di creare un piccolo gruppo di cantori. Abbiamo fatto anche qualche concerto che spero a suo tempo sia piaciuto, quindi vorrei salutare Cecilia, Isabelle, Ursula, Federica, Susanna, Giuseppe e Matteos. Spero stiano anche all'ascolto. E a tutti loro ovviamente vanno anche gli certo. auguri di Bruxellando e un caloroso arrivederci, chissà, vi riascolteremo. Salut, je suis Dani, e se con moi tu vuoi faire partie de l'équipe de bénévoles de Radio Alma, envoie un mail ad adresse mail@radioalma.bo. A bientôt. Per seguire la seconda parte dello speciale sul nuovo presidente del Consiglio italiano Mario Monti e il suo governo, non mancate l'appuntamento mercoledì 14 dicembre ore 21 su Radio Alma 101.9. Non sono sicura che possiamo continuare così, perché durerà un po' tanto, no, anche se sarebbe molto divertente. Sono un po' malato, ma insomma, ci ha provato. Grazie, grazie, sei particolare, grazie. Ah, eccoci di nuovo in radio, eccoci di nuovo con un suggerimento di lettura. Stasera vi parlerò di uno dei libri di Carlos Ruiz Zafón, che fondamentalmente si dovrebbe leggerli all'inverso, cioè il primo libro che ha fatto grande successo, quindi L'ombra del vento, si dovrebbe leggere come seconda, e Il gioco dell'angelo, di cui parleremo stasera, come primo. perché nel tempo è antecedente, e infatti i due libri hanno dei personaggi in comune, se possiamo dirlo, o comunque danno spiegazioni o danno la possibilità di gettare uno sguardo nella vita di alcuni personaggi che appaiono poi anche nell'Ombra del Vento. Quindi si può dire che l'ha seguito precedendolo. Sì, esattamente. È un caso particolare, cioè, vedi che le cose hanno applicazione, cioè, scusa. Tu devi solo chiedere alla nostra Bruxellandopedia e lui ti darà la risposta a tutto ciò di cui tu hai bisogno. Esattamente. E quindi si tratta di nuovo di una storia che è ambientata nella vecchia Barcellona, con la sua atmosfera un po' particolare, che Carlos Ruiz Zafón lo vede un po', se possiamo dirlo, scuro, nebbioso, mistico. Sì, sì. Concessi tutti e tre. Assolutamente. Esattamente. Però è molto particolare, ha il suo fascino, e specialmente lo scrittore ha un certo talento di attirarti nella sua storia, di fartelo credere che possa esistere una persona che per esempio ti risolve alcuni problemi, ti fa tipo un deal da Faust. Forse di più. Ecco, si tratta di un giovane scrittore che comincia ad aprire le sue ali, però dopo viene coinvolto sta cominciando a produrre dei gialli, praticamente vendendosi l'anima di scrittore, e soltanto al momento che lui si sente male, che si scopre che ha un tumore al cervello, che lui comincia a occuparsi però seriamente della sua carriera di scrittura. Però è esattamente in quel momento che viene il cosiddetto diavolo, se possiamo chiamarlo così, a tentarlo di farlo scappare da questa sua malattia, di anche dargli l'agevolezza materiale in cambio della scrittura di un libro che possa diventare una religione, che possa essere un libro per cui si possa uccidere, se possiamo dirla così. E quindi lui alla fine intraprende questo viaggio, e senza dirvi tanti dettagli, c'è di tutto in questo libro. Cioè, io lo raccomando proprio per queste serate un po' fredde, in cui uno sta al caldo e ha bisogno di leggere di una cosa... di una cosa che scaldi ma che anche ti tiri dentro, che coinvolga, ma che allo stesso tempo ti faccia sentire che io sono al sicuro laddove sono. quindi è molto, diciamo, è un'avventura cupa molto interessante, che raccomandiamo specialmente per quelli che possono apprezzare questa particolare atmosfera. Ma io non mi ricordo più perché l'aveva chiamato il gioco dell'angelo. Perché il cosiddetto diavolo, come lo chiamo io, che si chiama Corelli nel libro, Corellini invece era un bel compositore una volta. Scusi? Corelli. Che ha sempre uno spillo con l'immagine di un angelo sopra. E quindi fondamentalmente è lui che tira un po' i fili, anche se alla fine si scopre che non sono tutti i fili che tira veramente lui, ci sono anche altri nel gioco. E così è per questo. Quindi ricordiamo ai nostri amici ascoltatori Il gioco dell'angelo di Carlos Ruiz Zafón. Ma prima di congedarmi, vi faccio far sapere che l'altra settimana noi abbiamo parlato dell'ultimo di Murakami, l'1Q84, e adesso sul nuovo blog del Bruxellando, quindi su radioalma.eu/, come si chiama? Daniele lo sa, non sono sicura che lo sa. Radioalma.eu/Bruxellando. Ah, slash si dice slash, ecco. Slash si dice slash. Noi italiani siamo pigri. Barra Bruxellando. No, sono appunto slash, capiscono tutti. Ecco, c'è un... Barra a destra. No, a sinistra. No, a destra. Ah, no, a destra, ha ragione. Quindi su questa barra destra pussellando ci ho messo una piccola descrizione del libro, ma abbiamo anche la soundtrack del libro. Oltre, wow, è promesso, quindi, è vero, la sì, devi... esattamente. Abbiamo quindi sul canale YouTube di Bruxellando e anche con l'aiuto di questo link su questo blog si può ascoltare tutte le musiche che sono referenziate nel libro e che lo rendono ancora più speciale la lettura. A proposito di post, per Natale sarà tutto online, sarà tutto online perché arriva Babbo Natale. Ecco, Babbo Natale porterà tutti i regali. Che a significa tutti? Sarà tutto online? Perché sono pochissime le puntate appuntate. Le abbiamo messe solo tre per motivi tecnici e adesso tutte arriveranno le altre i regali saranno ripulite e messe online. La settimana prossima, non vi preoccupate, sarà una puntata consacrata interamente al Natale. Oddio, e noi purtroppo non ci saremo. No, no. E me lo dice così. Bene, con questo bene. Finalmente gli ascoltatori sanno che cosa pensa Meridiano. No. Tutto scritto, sì, è una verità. Tra l'altro, come avete potuto sentire, ascoltare, ce l'ha detto in diretta, quindi noi vi auguriamo buon Natale anche. Vabbè, mi devo industriare, sarò solo soletta. Come soletta. Si dice in ungherese, buon Natale. Diciamolo questa sera, forse ci chiamiamo vi chiamiamo dalla Transilvania. Sì, potremmo anche chiamarvi dalla Transilvania. Dai, saremo onorati e felici. Cari amiche e cari amici, noi siamo al termine, Bruxellando, martedì sera, ore 21, Radio Alma, siamo sempre felicissimi di ritrovarvi, speriamo anche voi. Ringrazio Dani M alla regia. Grazie a voi. I suggerimenti di lettura straordinari della nostra Fiordaliso. Grazie, ciao. Il nostro Giorgetto che stasera era silenzioso. Era forse affascinato dalla musica. Mi piace molto. Dalla musica antica. Ha una sorta di magia. Assolutamente. Il nostro amico Francesco che è stato con noi per l'intera puntata e ci ha fatto scoprire meraviglie di cui effettivamente di tanto in tanto avremo bisogno. E abbiamo bisogno. La sottoscritta. E l'immancabile Mary Natalizia D. Sì, la D resta sempre lì, anche se quando non siamo a Natale. Sì. Quindi io vi auguro un'ottima, felice settimana. Andiamo verso Natale, quindi siate tutti più buoni. Buona serata a tutti. Ciao.